Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Ci siamo qui dal Groovemaster Studio di Radio 24 per dare il via alla puntata di questa domenica del nostro soundcheck, la prova del suono. Siamo pronti oggi per presentarvi alcuni album che hanno come protagoniste delle belle signorine o signore. Ma prima di tutto vado a introdurvi la bellezza in persona della radio italiana, ovvero Silvia Barba. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Sei contenta che ho scelto delle ragazze come protagoniste per la puntata di questa domenica? Contentissima, beh, proprio woman rules questa, ecco, sera. No woman, no cry. Allora, non potevo non selezionare in apertura quella che ormai è una stella di prima grandezza del jazz ormai da tanti anni. Pensa che io ricordo quando per la prima volta arrivò in Italia in una edizione di Umbria Jazz rintanata in un piccolo club ristorante con il suo trio, formazione che poi le ha portato fortuna fino ad approdare alla corte del grande producer Tommy Lee Puma, da poco scomparso, e quindi vi stiamo parlando di Diana Krall. Bellissima, elegantissima, a volte come dire criticata per la sua, per il suo, sembra un po' distaccata, sembra un po' fredda, in realtà secondo me molto elegante, assolutamente con una sua cifra, un suo stile, e ha fatto la sua fortuna, ha vinto tantissimi premi, ha regalato tantissime belle canzoni e ha rivisitato spessissimo il songbook americano, come nel caso di questo ultimo album, con la sua classe, con il suo stile, devo dire davvero una grande della musica internazionale. Ecco, dopo le ultime esperienze fatte con big band, quindi con grandi organici con i quali poi si è esibita in giro per il mondo, Diana Krall torna in questa nuovissima produzione intitolata Turn Up the Quiet, quindi è come dire torniamo un po' alla tranquillità, sì, no? In questo senso, e infatti l'album è abbastanza cool, per usare, sì, proprio un termine adeguato allo stile, vari standard di jazz che Diana Krall interpreta in questa occasione proprio con una voce caldissima, e la cosa che mi ha colpito di più è anche proprio il mix che è stato fatto nella realizzazione di questo album, con la voce molto presente, molto avanti, e lei canta in un registro assolutamente caldo, proprio forse proprio per affascinare, ammaliare e rendere anche un po' più sexy tutta la produzione. Anche la copertina è molto sexy, con quelle gambe bellissime che compaiono accavallate, esatto, sì, in un divano, seduta su un divano, una poltrona, sì, no? Vicino a dei vinili, quindi lo stile, l'old style che compare anche assolutamente nel copertino. Old school è la produzione di Diana Krall per Turn Up the Quiet, e direi di ascoltare subito qualcosa e poi di parlare anche dell'organico che ha coinvolto, che vede musicisti insomma top level della nuova generazione, ma ne parliamo fra pochissimo dopo aver ascoltato Diana Krall in questo classico del jazz, ovvero I'm Confessing That I Love You, qui al soundcheck di Radio 24. L'avrete sicuramente riconosciuta, Diana Krall, la sua voce caldissima per questo nuovo album intitolato Turn Up the Quiet, protagonista in apertura di questa puntata del soundcheck di Radio 24. Probabilmente, Silvia, questo Turn Up the Quiet è anche forse l'ultima produzione discografica realizzata dal grandissimo Tommy Lee Puma prima, sì, della sua scomparsa. Noi gli abbiamo dedicato con Francesco Tromba una puntata intera a un gigante del jazz e della musica, un uomo che ha cambiato completamente proprio il metodo di produzione discografica. Beh, direi di sì, poi magari non so se ha completato tutto il lavoro e tutto il percorso di questo ultimo album, però Diana Krall ha voluto inserirlo nei credits proprio forse per tributare il fatto che Tommy Lee Puma l'ha scoperta e l'ha lanciata nel grandissimo mondo internazionale del jazz, e quindi comunque l'album è elegantissimo, è, e quindi si risente anche la mentalità tipica di Tommy Lee Puma, che ha lanciato grandissimo grandissimi artisti, non so quanti Grammy Award abbiano vinto le sue produzioni, ma abbiamo già parlato di Tommy Lee Pooh, ma oggi invece parliamo di Diana Krall e poi di altre star della musica di oggi, più o meno famose, no? Però ne parliamo dopo. Sì, tu non trovi che in questo album, io ho letto anche altre critiche, lei avrebbe potuto osare un po' di più, lei è la signora del jazz. Oramai va sul capito sul sicuro. Vero? Va trovi? Sul sicuro, sì, secondo me, proprio entrata in studio in 2 giorni ha fatto l'album, anche perché quando coinvolgi musicisti come quelli che partecipano a questa produzione diventa tutto più facile. Non mi sembra che poi ci siano arrangiamenti così complessi, è proprio un disco di standard di jazz cantato molto bene, suonato con grande classe, che sicuramente porterà Diana Krall in giro per il mondo con più facilità, perché certamente una cosa è andare in giro con una big band, una cosa con un organico di questo tipo. E il suono proprio che voleva ritrovare era proprio quello del jazz più classico, forse si rifà quasi alla formazione tipica di Nat King Cole, organico base con pianoforte cantante, con Diana Krall protagonista, poi contrabbasso affidato a un gigante come Christian McBride e si sente proprio al primo ascolto. Poi c'è batteria in alcuni brani e vari chitarristi. Chi è sono? Vero, si passano un po' la palla: Russell Malone, Anthony Wilson, Mark Ribot, e poi c'è questo fantastico violinista che è Stuart Duncan, che fantastico, compare in alcuni brani e nel prossimo che sentiremo, che fa un solo bellissimo di violino e che comunque rende anche questo brano ancora più old. Mi ricorda un po' anche un po' il jazz manouche, no? Se vuoi, un po' certamente, lo swing. Certamente. Allora direi di ascoltare Diana Krall con I'll See You In My Dreams, da Turn Up The Quiet, pubblicato qualche settimana fa. Soundcheck. Il suono della musica. Me la ricordo da ragazzina quando veniva a casa insieme alla mamma, Didi Bridgewater, figlia d'arte, si chiama China Moses, nuovo album per lei intitolato Nightingales, per questa bella ragazza, diciamolo pure, somiglia proprio alla mamma. Molto, molto. Più piccolina della mamma, ma molto prosperosa. Molto bella, molto sorridente, sempre con una grande grinta sul palco, sui social, sempre davvero con una grande grinta. E a me piace China Moses anche perché è un'artista versatile. Ha iniziato la sua attività canticchiando tutti gli standard che conosceva la mamma. E certo, a casa. E quindi diciamo era. Che è partita bene, cioè conosce perfettamente il songbook americano, poi il primo ingaggio l'ho avuto, siccome era anche fisicamente carina, americana, figlia di Didi Bridgewater, insomma, se metti insieme tutti questi ingredienti, alla fine non è difficile per una come lei farsi assumere come DJ da MTV France, ma ormai tanti anni fa, quindi lei, la sua popolarità in Francia, dove è cresciuta e vive ancora. Lei vive ancora? Sì, sì. Didi si è trasferita prima a Las Vegas, poi adesso si è spostata a New Orleans da un po' di tempo, ma China Moses continua la sua attività a Parigi con successo, perché è piena di cose da fare, quindi non sì, solo certo. Adesso produce dischi e se la suona e se la canta e questo disco è anche molto carino, tu che ne pensi? Molto bello, guarda, quando l'ho ascoltato devo dire, perché c'è un po' tutto, c'è l'R&B, c'è il jazz, c'è il soul, c'è la grinta che contraddistingue il suo stile. E la famiglia proprio, la famiglia, ce l'hanno nel DNA. Figlia d'arte, chiaro. E poi c'è anche il suo modo di essere gioiosa, ribadisce anche questo attraverso le sue canzoni. Sono tutte sue composizioni originali, quindi finalmente qualcosa di nuovo, e devo dire mi è piaciuto moltissimo, ascoltatelo tutto. Non so se l'album sia stato registrato a Parigi o negli Stati Uniti, certamente l'organico che ha coinvolto per la produzione discografica è composto da giovani talenti, credo americani. Poi in tournée, proprio esatto, in questi giorni invece porta un organico francese, tra l'altro anche con la partecipazione di un nostro italiano al sassofono. Sì, Luigi Grasso, che forse in Francia si farà chiamare Luigi Grasso, probabilmente sì. Tu dici. Sì, l'accento francese secondo me poi viene ribadito dai francesi. E, la line-up invece del disco è composta da Luke Smith al piano e all'organo, Neville Level Malcolm al basso, Jerry Brown alla batteria e Anthony Marshall, che è il producer, ma anche backing vocals. Bene, un album divertente, come dicevo. dicevi, questi ragazzi hanno servito al meglio il talento versatile di China Moses, figlia d'arte, come dicevamo, figlia di Didi Bridgewater. Album, lo ripeto, si intitola Nightingales, pubblicato proprio anche questo da qualche giorno. Giorni. Il brano che vi faccio ascoltare, anche questo molto divertente, molto ben fatto, si intitola Disconnected, China Moses al soundcheck di Radio 24. Yeah. Wow. Soundcheck. Il suono della musica. Beh, qui abbiamo cambiato versante, abbiamo cambiato emisfero, abbiamo cambiato sound, proprio altre spezie qui al soundcheck di Radio 24, tutte le spezie che ci porta la formidabile Carmen Sousa, da poco tempo fa in tournée in Italia per presentare proprio il repertorio di questo nuovo album intitolato Criology. Carmen Sousa, che meraviglia di donna, che artista. È bellissima, è bellissimo questo album. Io sono davvero molto contenta di parlare di questo album, perché tra l'altro quando l'ho ascoltato e l'ho fatto anche ascoltare a delle mie amiche, hanno detto: beh, questo è la canzone, è il disco dell'estate, si può andare al mare ascoltando Criology, perché è un mix bellissimo di musica. Lei è portoghese ma di origine capoverdiane, ma passa dall'Africa, va in Brasile, torna a New Orleans, sì, c'è di tutto, c'è di tutto. Ci sono influenze da Maria Joao a Billie Holiday, è sì, davvero dalla bossa bellissimo. Nova alla morna, quindi potremmo dire. Questo infatti il brano che abbiamo ascoltato era Upane Ghigno, non sentivo Upane Ghigno da tantissimo tempo, e questa versione mi piace molto. Bellissimo. Poi mi piace anche il fatto che Carmen Sousa si diverte con la voce, a volte stridente, a volte calda, fa quello che vuole troppo con forte. La voce fa quello bravissima che vuole. Chitarrista anche. E tra l'altro è stato definito il suono Sousa Pascal Afro Sound. Sai perché? Mm. Perché il suo bassista, che è il produttore degli ultimi album e che dà agli arrangiamenti questo sound particolare, è davvero il coprotagonista di questo progetto. Da tanti anni girano insieme e hanno fatto un suono, è una cifra specifica di questo sound appunto, ed è bellissimo, è divertente, la gioia, il mix, il fatto di fare le cose insieme e di condividerle attraverso tutti i suoni del mondo. È per questo che si chiama World Music e lei è veramente l'interprete principale in questo momento. E lei si chiama Carmen Sousa, vi raccomandiamo l'acquisto di Criology, sì, per scoprire il talento di un'altra artista eccezionale. E bravissima. Come diceva Silvia, probabilmente potrebbe diventare la vostra colonna sonora per la prossima estate. Fa caldo, Silvia, Criology è perfetto. È perfetto, anche in questo momento chi è in macchina e sta tornando dal mare può alzare il volume e ballare insieme a noi. Allora, salutiamo tutti voi per l'attenzione, per l'affetto che ci state dimostrando. Siamo arrivati a, proprio come dicevamo anche ieri, al giro di boa, forse l'ultimo sì. mese di programmazione, chiudiamo proprio nel primo weekend di luglio, poi andremo in pausa, ma insomma abbiamo ancora tanta musica da farvi scoprire e da proporvi qui su Radio 24. Quindi chiudiamo con Carmen Sousa, il prossimo brano è Pretty Eyes, è bellissimo questo brano, quanto fantastico, mi piace. Fantastico, guarda, già che balli insieme a me. Ecco, grazie a Silvia Barba, grazie di cuore. Silvia, noi ci risentiamo quindi sabato prossimo a partire dalle 19:15, sempre soltanto su Radio 24. Posso aggiungere la luz mia vita.